falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi raccontiamo una storia di grande sportività, una storia meravigliosa, portatrice dei valori che piacevano tanto a Pierre de Coubertin, sui quali l'ideatore delle Olimpiadi ha fondato le basi dello sport moderno. L'importante non è vincere, ma è partecipare avendo la certezza di essersi battuti bene. Questo è il motore di quello che stiamo per raccontare e che ci è stato segnalato da un ascoltatore che si chiama Alessandro Tamarozzi. E allora lo chiamiamo in linea e annunciamo assieme di chi parleremo oggi. Dillo tu, Alessandro. Ciao, ma parliamo di un grandissimo, con un coraggio incredibile, di Lutz Long, che era un atleta simbolo della vetrina nazionalsocialista, l'ariano, che invece strinse un'amicizia profonda con il nemico pubblico uno di Hitler durante le Olimpiadi del 36, ovvero Jesse Owens, che era nero, della provincia americana. Esatto, la storia di Lutz Long e del suo rivale, ma rivale solo sportivo, Jesse Owens. Alessandro, come mai ti è venuta in mente questa storia? Perché penso che oggi paradossalmente fosse più facile compiere un'azione come fece Lutz Long, che in un momento del genere, in una situazione del genere, riuscì ad abbattere qualsiasi tipo di barriera razziale. Esatto. E fece estrema amicizia con quello che invece avrebbe dovuto odiare, che esatto, era un nero. Bravissimo, grazie Alessandro dell'idea che noi mettiamo in pratica. Rimani all'ascolto e complimenti. Ok, grazie a voi. Ciao Alessandro. Ciao ciao. Carl Ludwig Long, detto Lutz Long, che è un personaggio incredibile, è un grande sportivo in tutti i sensi, perché è uno dei più grandi saltatori in lungo della storia, però è il protagonista di qualcosa che va al di là della semplice competizione sportiva, perché entra nella sfera dei rapporti umani, della solidarietà, del fair play. È qualcosa che merita sicuramente di essere raccontato, perché quello che lui compie accade in circostanze uniche che ne avrebbero fatto pensare a un comportamento ben diverso. Andiamo con ordine e iniziamo a vedere chi è lui, Lutz Long, e vedrete che vi stupirà. Nasce a Lipsia il 27 aprile del 1913, alto, biondo, con gli occhi chiari, al portamento fiero ed elegante, il tipico tedesco, incarna in pieno gli ideali estetici di quella razza ariana che di lì a poco rappresenterà l'espressione massima della nuova Germania in ascesa, insomma, e anche della follia che ne conseguirà. Si iscrive al prestigioso Leipziger Sport Club di Lipsia nel 26, quando a 13 anni diventa subito una promessa dell'atletica leggera. Ai primi campionati europei che si svolgono a Torino nel 34 vince la medaglia di bronzo nel salto in lungo, ma è due anni dopo che il suo nome è destinato a diventare famosissimo in tutto il mondo. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Era l'audio originale della voce di Adolf Hitler che inaugura le Olimpiadi di Berlino del 36, le Olimpiadi forse più incredibili di tutti i tempi, perché tutte le volte, insomma, un regime ha cercato di propagandarsi tramite un'Olimpiade, però nel 36 fu veramente, da un lato, insomma, uno scontro tra due culture e tra due mentalità che avrebbe portato alla Seconda Guerra Mondiale, e dall'altro la consapevolezza che forse non si sarebbe più più tornati indietro. Siamo al 1 agosto del 36. Il Führer sembra un moderno Cesare, si affaccia dalla tribuna d'onore dell'Olympia Stadium e dà il via agli undicesimi giochi olimpici della storia. In realtà tutto questo avrebbe anche potuto non esserci, perché la decisione di tenere i giochi a Berlino era stata presa quando la Germania era ancora una repubblica democratica, nel 31. Poi Hitler sale al potere e molte nazioni chiedono di cambiare la sede. Il Comitato Olimpico rifiuta e anche lo stesso Führer all'inizio sembrava riluttante all'idea, non aveva capito. Poi Joseph Goebbels, che è lo scaltro ministro della propaganda, gli fa capire che le Olimpiadi sono l'occasione perfetta per veicolare nel mondo i valori del nazismo e mostrare a tutti, anche con la arroganza tipica delle dittature, la potenza della Germania. Se le Olimpiadi devono essere uno strumento di propaganda politica, allora non bisogna badare a spese. Ecco perché il Führer fa costruire impianti, strutture modernissime, all'avanguardia, celebra l'occasione con il film propagandistico della famosa regista Leni Riefenstahl. Ricordate, ne abbiamo parlato, il film Olimpia, probabilmente il più importante e anche il più bel film olimpico mai girato. È un film che però esalta la bellezza degli atleti tedeschi, simbolo della superiorità della razza ariana. Queste sono le prime Olimpiadi che vengono riprese dalle telecamere della televisione. Il regime tedesco mette in onda il primo programma televisivo regolare al mondo che trasmette in diretta le gare, e vista la scarsità degli apparecchi televisivi privati vengono addirittura create le cosiddette sale pubbliche televisive in diverse zone di Berlino per permettere a tutti di seguire le gesta degli atleti. Tutto questo porta all'Olimpiade perfetta, come viene definita, e mai come prima i giochi coinvolgono il pubblico che partecipa con un interesse senza precedenti. Arrivo a Berlino dall'Ellade, portata attraverso sette nazioni, e dopo un percorso di 3.000 chilometri della fiamma accesa Olimpia. Dal dirigibile Hindenburg si può osservare l'intenso movimento che dalla porta di Brandeburgo conduce per l'arteria olimpionica mareggiante di folla sulla spettacolosa cornice di 150.000 persone festanti. Beh, diciamo che l'Istituto Luce, quanto insomma ridondante retorica, non difettava, no? Era l'audio originale del filmato sull'inaugurazione delle Olimpiadi di Berlino. L'Istituto Luce era lo strumento di propaganda del regime fascista, raccontava i dettagli dell'evento, descriveva l'arrivo del Tedoforo che regge la fiaccola dalla Grecia, dall'Ellade, come diceva lo speaker, e dopo 3.000 chilometri la fiaccola giunge all'Olympia Stadium. L'evento è assolutamente unico e c'è bisogno di eroi che rendano più enfatico possibile tutto quello che sta accadendo. Ecco, uno degli eroi potenziali è il protagonista della nostra puntata, Lutz Long, il 23enne saltatore in lungo destinato a entrare nella storia non solo per le sue performance sportive, ma anche, e questo ancora il regime non lo sa, per il suo comportamento incredibilmente leale. At the wrong time, on the wrong day, all the lights are fading now. If I'm dreaming all my life, Falco e Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Lutz Long, il campione tedesco di salto in lungo che nel 1936 si appresta a partecipare alle Olimpiadi di Berlino, quelle organizzate in ogni minimo dettaglio dal governo tedesco, che vede in questo grande avvenimento sportivo una magnifica opportunità per fare propaganda al nascente partito nazista fondato da Adolf Hitler. Lutz Long, 23 anni, studente in legge, e incarna in pieno gli ideali e gli stereotipi della razza ariana: alto, biondo, occhi azzurri, è un magnifico campione, è cresciuto nel rispetto dei valori della patria, è il super favorito. Due anni prima a Torino agli europei ha vinto il bronzo con 7,25 metri, che è una buona misura, ma nel frattempo si è allenato duramente, è maturato come atleta e ha messo a punto una tecnica spettacolare, insomma è pronto a dare il meglio di sé. Hitler ripone in lui grandi speranze e gli atleti tedeschi sono piuttosto forti in generale, ma non tanto nell'atletica leggera, perché l'egemonia è quella degli statunitensi, soprattutto nella velocità e nei salti. Gli atleti migliori, sono quelli di colore, e quindi diciamo che è una cosa che a Hitler non può andare giù. Durante la gara se ne esce con una frase un po' azzardata: gli americani dovrebbero vergognarsi di se stessi, lasciando che i negri vincano le medaglie d'oro per loro. Sì, gli atleti di colore sono superiori proprio morfologicamente. Hitler vuole fare bella figura in quell'Olimpiade e Lutz Long lo sa, ma sa anche che ha dei rivali con i quali non si scherza. Uno in particolare si chiama Jesse Owens, afroamericano originario dell'Alabama, è un super campione, gareggia in varie discipline: 100 metri, 200, staffetta 4% e salto in lungo, dove Lutz Long se lo ritroverà con. Tra l'altro, un anno prima Owens ha stabilito e eguagliato ben 6 record del mondo in un'unica giornata, e quindi è già una leggenda. In quell'occasione ha saltato 8,13 metri. Il nemico da battere per Lutz Long è solo lui. Arriviamo alla mattina del 4 agosto 1936, si svolgono le qualificazioni per la gara di salto in lungo che si terrà nel pomeriggio alla presenza del Führer. Lutz Long si trova di fronte all'uomo più veloce del mondo, perché soltanto il giorno prima Jesse Owens ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri. Oben fliegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Rosenberg kämpft sich heran. Metcalf kommt, Ziel! In 100 meter lauf, esse oben. Qualificazioni del mattino, è un passaggio importante della gara, però Jesse Owens intanto è ancora frastornato dal successo del giorno prima e poi forse comincia a sentire la responsabilità, perché è uno che potrebbe vincere, come poi accadrà, 4 medaglie d'oro: 100, 200, staffetta e salto in lungo, ma bisogna qualificarsi. Allora, primo salto viene sprecato perché equivoca sul via del giudice e quindi pensa di fare una sgambata di riscaldamento. Gli viene assegnata bandiera rossa, che in quel caso vuol dire salto nullo. Va in confusione totale e anche il secondo salto è nullo. Vi ricordo il regolamento, allora come oggi, 3 salti per qualificarsi, quindi gli manca un salto solo. Se sbaglia anche il terzo viene squalificato ed eliminato dalla finale. Dall'altra parte c'è Lutz Long che osserva tutta la scena. Lui si è già qualificato e qualunque sportivo in ogni tempo e di ogni bandiera tirerebbe un sospiro di sollievo vedendo estromesso il suo rivale più terribile, ma Lutz Long non è uno sportivo qualunque. I can't see why in this short span of time anyone does without. Lutz Long sa che ha gli occhi della Germania puntati su di sé, sa che gli occhi di Hitler sono puntati su di lui, si rende conto che quella gara di salto in lungo lui deve vincerla per forza, però sa anche che non vuole vincerla grazie al fatto che il suo rivale non si è qualificato. È animato dal più sincero fair play, si avvicina al nemico, al rivale, a Jesse Owens. Uno come te dovrebbe essere in grado di qualificarsi ad occhi chiusi. Eh sì, lui fa riferimento agli incredibili risultati che Jesse Owens ha accumulato solamente in pochi mesi, che lo rendono un campione immortale tutt'oggi. Risultati che in quel momento Owens sembra avere dimenticato. Quando venne il momento delle gare di qualificazione del salto in lungo, ero sinceramente in confusione. Allibii nel vedere un ragazzo altissimo che saltava quasi 8 metri in allenamento. Mi dissero che Hitler l'aveva tenuto in serbo per la vittoria nella gara di salto. E sai che avesse vinto lui? Questo sarebbe stato un altro appiglio della teoria nazista della superiorità della razza germanica. Persi la concentrazione e sbagliai. Sferrai un calcio di rabbia al terreno. Ad un tratto mi sentii una mano sulla spalla. Mi voltai e mi trovai a guardare negli occhi azzurri del campione tedesco. Io amo lo sport proprio perché ti dà la possibilità di sentirti raccontare delle storie meravigliose come questa, perché questo è il vero colpo d'ala, quello che magari ti fa perdere un'Olimpiade ma ti fa entrare nella storia come grande uomo, perché lui compie il gesto che gli fa spiccare un volo molto oltre gli 8 metri dei suoi salti. Va da Owens e gli suggerisce di staccare una trentina di centimetri prima della linea di battuta, una strategia di prudenza che gli eviti di vedere il salto annullato. Appoggia perfino una sua maglietta a fianco della pedana, all'altezza del punto di stacco. Beh, più di così, un allenatore in seconda praticamente. Owens, confortato dalla lealtà dell'avversario, che diventa un amico, trova il suo equilibrio psicologico, esegue correttamente il salto, si qualifica per la finale del pomeriggio. La gara, così come la vuole Lutz Long, basata sulla onestà e sul fair play, è salva. I due stanno per incontrarsi di fronte al Führer per la finale di salto in lungo e tra poco scopriremo come è andata a finire. Meravigliosa storia di sport, di lealtà, di amicizia, peraltro ce l'ha segnalato un nostro ascoltatore, Alessandro Tamarozzi, ma è una storia tra due uomini che apparentemente dovrebbero odiarsi, lontani mille miglia l'uno dall'altro, uno biondo, ariano, come si sarebbe detto in quegli anni, che deve vincere un'Olimpiade per compiacere il suo dittatore che è Adolf Hitler, e l'altro un nero, quindi il nemico in quelle Olimpiadi, che potrebbe fare 4, cioè vincere 100, 200, 4% e salto in lungo. Abbiamo lasciato Lutz Long la mattina del 4 agosto 36, quando in qualche modo riesce a rassicurare il suo rivale, l'afroamericano Jesse Owens, a farlo qualificare, rilassandolo e spiegandogli che potrebbe qualificarsi a occhi chiusi. Owens supera il suo momento di difficoltà e vanno in finale. Ci siamo. Lo scontro sta per avere luogo. I due atleti rappresentano i due poli del mondo. Il tedesco biondo con gli occhi azzurri, pelle bianchissima, corporatura esile, l'incarnazione degli ideali dell'arianesimo puro a cui si ispira il nazismo. Dall'altra parte Jesse Owens, nero, muscoloso, corporatura possente, simbolo dell'uguaglianza razziale che non conosce confini, ma che proprio lì è considerato il nemico, uno spregevole rivale da battere. Sembrano opposti ma non lo sono. Si confrontano sul terreno della sfida sportiva, ma lo fanno loro con lo spirito giusto e con l'audio originale, quello della loro gara. Im Weitsprung hat sich der Kampf zu einer Entscheidung zwischen dem deutschen Lutz Long und dem schnellsten Läufer der Welt, Jesse Owens, zugespitzt. Lutz Long. 7,54 Meter. 7,54. Jesse Owens. Jesse Owens. 7,74 Meter. 7,74. Und nun wieder Long. Lutz Long. 7,84 Meter. 7,84. Owens. 7,87 meter. Lutz Long. 7,87 metri. Und nun noch einmal Jesse Owens. 8,06 meter. 8,06 metri. Così la medaglia d'oro va agli Stati Uniti d'America e soprattutto va a un nero, a Jesse Owens, che compie il miracolo. 4 medaglie d'oro e il Führer viene colto di sorpresa, non è certo felice. Diciamo che è furibondo. Lutz Long conquista l'argento, terzo arriva un giapponese, Naoto Tajima. La foto che ritrae i vincitori olimpici sul podio rimane nella storia perché è una testimonianza di qualcosa che va molto al di là di una semplice competizione sportiva, è un'immagine che parla al mondo di amicizia, di rispetto, di sportività, è un'immagine che non impedisce ovviamente poi lo svolgersi degli eventi successivi, quelli della guerra, quelli che conosciamo, però li supera perché arriva fino a noi oggi immutata nella sua forza. Lutz Long al termine dei salti va a complimentarsi con Owens, i due si abbracciano e imboccano insieme il tunnel che porta agli spogliatoi dello stadio, qui incrociano Adolf Hitler che era venuto a complimentarsi con il suo atleta. E c'è anche un nostro saltatore che si chiama Arturo Maffei, arrivato quarto con lo storico primato di 7,73 che rimarrà imbattuto fino al 68. Bene, Arturo Maffei assiste all'incontro e lo racconta così. Hitler andò davanti a Owens e gli fece il saluto a braccio teso, proprio nel momento in cui Jesse gli tendeva la mano per stringerla. Allora fu Hitler a tendere la mano, ma intanto Owens, correggendo il primo atteggiamento, aveva portato la sua mano alla fronte per eseguire il saluto militare. Questione di secondi, poi Hitler passò oltre. Decidete voi chi fu a rifiutare la stretta di mano. Ma andò proprio così, alla Ridolini. Beh, sì, è una scena che mi fa venire in mente Charlie Chaplin, mi fa venire in mente anche Paolo Villaggio, non dà la mano. Comunque, la testimonianza del nostro atleta smentisce quelle voci che avevano dato Hitler in fuga dallo stadio pur di non stringere la mano al campione nero. Però, indubbiamente, per Hitler, insomma, fu uno smacco clamoroso e molto difficile da digerire. Però la mano a Owen non la stringerà neanche il suo presidente Franklin Delano Roosevelt, perché non lo riceverà mai, perché in quegli anni insomma ancora non era tempo per complimentarsi pubblicamente con un nero. Everybody can see that it's a one more time in the ghetto, one more time if you please, one more time to the dying man. Perché l'America degli anni 30 non è meno razzista nei confronti dei neri di quanto non lo sia la Germania di Hitler, anche se Jesse Owens è un trionfatore, ha vinto le Olimpiadi di Berlino, ma non viene festeggiato come meriterebbe. Apparentemente Lutz Long sembra avere un destino migliore, continua la sua attività, migliora il suo primato, arriva fino a 7,90 metri con un primato che durerà per 40 anni, diventa avvocato, si sposa, ha un figlio di nome Kai, però allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale il suo pensiero, cioè non verrò chiamato alle armi per il mio status di atleta, viene disatteso. Non è così, viene arruolato in fanteria e viene spedito in Sicilia col grado di sergente maggiore. Viene ferito gravemente il 10 luglio del 43, il giorno dello sbarco delle truppe anglo-americane in Sicilia, viene fatto prigioniero e muore 4 giorni dopo, all'età di 30 anni. È sepolto in Italia, nel cimitero militare germanico di Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania. Per comprendere meglio il gesto di Lutz Long, anche dal punto di vista tecnico, abbiamo in linea Giovanni Evangelisti, che è un grande campione bronzo olimpico a Los Angeles nell'84, è stato il primo italiano a superare gli 8 metri nel salto in lungo, ha saltato 8,43 metri nell'87, una misura che gli sarebbe valsa una decina di Olimpiadi, avrebbe vinto le Olimpiadi per una decina di volte, il record è rimasto imbattuto per più di 20 anni. Buongiorno Giovanni. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Dunque, noi stiamo parlando di Lutz Long e di quella stranissima e storica sfida tra Lutz Long e Jesse Owens. Dunque, quando io vi vedo in pedana, un po' è mors tua vita mea, no? Perché tu salti, poi ti rimetti la tuta, stai a guardare gli altri e chiaramente meno buone sono le misure degli altri e più tu andrai avanti in gara, no? Quindi un pochino le gare di salto e di lancio si svolgono anche su queste dinamiche. Bene, come abbiamo raccontato, invece qua c'è un atleta che sta per essere eliminato. L'eliminato è Owens e un altro atleta che è Lutz Long, che gli va a dare un consiglio. E intanto tu l'avresti fatto, cioè è un gesto stranissimo, no? Beh, ti dico la verità che anch'io di quella gara lì sento parlare sempre di Jesse Owens, perché come ricordate ha vinto in quell'Olimpiade, certo, 4 medaglie, e di Lutz si sente parlare poco. La prima cosa che mi viene in mente è che sono gesti che io penso che non esistano più, sì. Anzi, si fa di tutto adesso per imbrogliare l'avversario, e mi riferisco al doping. Quindi quello lì è veramente stato un gesto veramente bello ed eccezionale. Eh sì, perché lui va a dirgli: guarda, stai tranquillo che anche se stacchi a 20 centimetri dalla linea comunque ti qualifichi. E per renderlo ancora più tranquillo gli butta un asciugamano per dargli un punto di riferimento. In pratica lo fa qualificare e poi Owens lo batte e gli frega la medaglia d'oro in una Berlino del 36, quindi con Hitler, insomma è un'Olimpiade particolare, no? E oggi non possono esistere sportivi del genere. No, non esistono perché ormai lo sport è diventato un business, anche l'atletica, anche se è uno sport minore, in cui si guadagnano soldi, molti soldi. Certo. E per cui cerchi in ogni modo, come dicevo prima, di battere l'avversario. Certamente non ci sarà nessuno adesso che ti viene a dire: guarda che meglio che stacchi un po' qui indietro. Senti, ma oggi soprattutto nei salti, nei lanci, com'è il clima? Cioè è un po' lo sport della gufata anche il salto in alto, il salto in lungo, i lanci in generale. Cioè tu stai lì, ti rimetti la tuta e speri che l'altro sbagli. No, io penso che non... Cioè c'è solidarietà, insomma, questa è la domanda. No, io penso che ci sia solidarietà, cioè se io almeno per quanto mi riguarda, nel senso che se uno si merita ed è più bravo di me, è giusto che vinca, che vinca, certo, lui. Però dall'altro, ripeto, se vince se pulito, la possibilità, uno non ti aiuta, certamente. Ho capito. Grazie Giovanni, sei stato preziosissimo e complimenti ancora, perché nel salto in lungo, insomma, noi di campioni ne abbiamo avuti pochi, tu sei stato il più grande. Ciao. Ciao, vi ringrazio. Negli anni 60 Jesse Owens torna a Berlino per rivivere l'emozione di quella incredibile Olimpiade. In quell'occasione riesce a incontrare qualcuno che desiderava conoscere da molto tempo. Lutz Long is dead. Lutz Long è morto. He was killed during World War II. Fu ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale, ma incredibilmente l'ho incontrato di nuovo attraverso suo figlio Kai, che è venuto da casa sua ad Amburgo per incontrarmi qui allo Stadio Olimpico di Berlino. Ci siamo scritti per molti anni e finalmente ora ci incontriamo. Kai, forse tu non sai che tuo padre è stato il responsabile della mia vittoria nel salto in lungo alle Olimpiadi del 1936. Jesse, tu sei stato una parte molto importante della mia vita. Ho guardato molto spesso le tue foto insieme a mio padre. Raccontami della vostra gara. Io ho visto mio padre pochissimo, perché sono nato nel 41 e lui è morto nel 43. È successo tutto qui, dall'altra parte del campo, quando stavamo facendo le qualificazioni. Tuo padre mi aiutò, io mi qualificai e fu così che arrivai alla vittoria. Io e Kai ci siamo sdraiati sull'erba dello stadio, come avevamo fatto con suo padre. E anche se può sembrare infantile, questo mi ha riportato alla memoria di quell'uomo che mi aiutò quando ne ebbi bisogno. Ho avuto molti bei momenti nella mia carriera, ma il più incredibile è stato sicuramente avere Lutz Long al mio fianco sul podio della vittoria. Nel 2000 il gesto di estremo fair play di Lutz Long viene esaltato nella campagna promozionale Celebrate Humanity del Comitato Olimpico Internazionale come esempio di messaggio di pace e fratellanza tra i popoli, secondo lo spirito originario dei giochi olimpici, quelli ideati e pensati da Pierre de Coubertin. You are my adversary. Tu sei il mio avversario, ma non sei il mio nemico. La tua resistenza mi dà forza. Il tuo impegno mi dà coraggio. Il tuo spirito mi nobilita. Anche se voglio sconfiggerti, se dovessi riuscirci, non ti umilierò. Al contrario, ti onorerò, perché grazie a te io sono un uomo migliore. I am a lesser man. Purtroppo oggi molto spesso lo sport delle rivalità, dell'esasperazione, dei soldi, del doping è lontano. È lontano da storie come questa. Questa è stata una meravigliosa storia di amicizia, di rispetto, di lealtà secondo valori che oggi stiamo dimenticando. Persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala anche a costo di perdere un'Olimpiade. Lutz Long è stata una di queste persone. Saltato in lungo, ma è arrivato molto in alto, come un falco, come un gabbiano. Se volete mandarci i vostri commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure sul nostro sito, o venite a cercarci attraverso i social, anche i miei social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.